Una manovra dunque quantitativamente impegnativa, necessariamente impegnativa, ma più contenuta di quelle che dovranno operare altri grandi paesi europei. Per chi paga regolarmente tasse e contributi, la pressione fiscale complessiva ed effettiva è allora ben superiore al 43,2% del PIL e può essere stimata prossima al 52%.